Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Leopoldo Mastelloni legge Amore e ginnastica di Edmondo De Amicis. Il segretario fece la sua ammasciata muovendo a stento le grosse labbra come se fossero appiccicate con la colla. To, to, to, disse intanto fra sé l'ingegnere assaporando la sua scoperta, e porta al segretario una seggiola su cui egli sedette come sopra un mucchio di spine. Gli offerse un bicchiere di malvasia che gli prese e si tenne sul petto con un atteggiamento pretesco. E sul momento il signor Ginoni concepì e cominciò a porre in atto un disegno di faceta persecuzione. «Giusto, segretario amato», gli disse, «lei è caduto nel bel mezzo di una discussione di ginnastica. Si discuteva con la signora maestra. Ci deve dire anche lei a che scuola appartiene, e della scuola del Bauman, quali sono le sue idee intorno agli effetti della ginnastica sulle funzioni del cuore». La maestra alzò gli occhi al soffitto. Il segretario, atterrito, si levò in fretta il bicchiere dalla bocca e guardò l'ingegnere. Poi trangugiò il vino d'un sorso e rispose, alzandosi confuso, «Il signor ingegnere vuole scherzare. Mi rincresce di non potermi trattenere. Devo risalire subito dal commendatore». «Oh no! Signore», disse il Ginoni, «non le permetto di scappare in questa maniera. D'altra parte non può andarsene ora, perché il portone di casa, rimanendo aperto fino alle 11, non si sa mai chi si possa incontrare per le scale. E lei, da buon cavaliere, da cortese segretario, è in dovere di accompagnare fino all'uscio la signorina Pedani». Il segretario risedette subito. Ma lo studente fece un atto di dispetto, poiché sperava d'essere lui l'accompagnatore. «Io non ho paura di nessuno», disse con voce virile la maestra. «Non basta», rispose il Ginoni, «non aver paura, bisogna farla agli altri, e lei non è il caso». Lo studente sviò la conversazione interrogando la Pedani sulle grandi feste che erano state annunziate per il congresso ginnastico di Francoforte, ed essa gli diede dei ragguagli. Mentre essa parlava, il segretario la dardeggiava con occhiate di fianco, geloso a morte dell'apparente familiarità con cui si intratteneva col giovane, e sconsolato ad un tempo di vedere tutti i suoi pensieri e sentimenti volti alla ginnastica con tanto ardore da non lasciar luogo a sperare che le potesse capire un'altra passione nel cuore. Balzò dalla seggiola quando vide la Pedani alzarsi per uscire, ma l'ingegnere fu feroce. «Ora che ci penso», disse, mentre tutti si alzavano, «il signor segretario è così timido con le signore che è capace di lasciar la maestra al secondo piano. L'accompagnerò anch'io». Dio grande! Quella fu per Don Celzani come una ceffata d'una mano di ghiaccio, ma non osò rifiatare. E mentre tutti si salutavano e lo studente stringeva la mano alla maestra, egli osservò un moto sfuggevole sul viso di lei, come se quegli le avesse dato una stretta troppo forte, e fu per il pover'uomo una seconda ceffata. La Pedani, l'ingegner Ginoni e Don Celzani uscirono tutti e tre e salirono lentamente le scale, quasi oscure. L'ingegnere seguitò a dir barzellette, il segretario, con suo gran dolore, non trovò una parola da dire, andò su a fatica, soffermandosi quando il Ginoni e la maestra si soffermavano, e restando un po' indietro ogni tanto per divorare con gli occhi quella bella persona, e quasi per cavare una risposta dalle sue forme, o per pugnalare con lo sguardo la schiena del suo aguzzino. Quando furono davanti all'uscio, dove non arrivava la luce del gas, l'ingegnere accese un fiammifero e la maestra tirò il campanello. Il segretario stette pronto per cogliere e interpretare lo sguardo del saluto e, infatti, rientrando, essa lo guardò. Ma, oimè, lo sguardo non disse nulla e nel punto stesso che si spegneva il fiammifero si spense la sua speranza. L'ingegnere indovinò dal suo silenzio la tristezza di una delusione e, fatto più libero dall'oscurità, gli disse a bruciapelo: «Segretario caro, lei è innamorato della maestra!» Il segretario scattò, negò, si stizzì, si mostrò meravigliato e offeso da quello scherzo. «E perché mai?» domandò il Ginoni tra il serio e il faceto. «Sarebbe forse un disonore quando fosse? È una bella e onesta ragazza, è originalissima, non della solita stampa. Perché non mi dice la verità? Sono un buon amico e le potrei dare dei buoni consigli. Sono un gentiluomo e rispetto gli affetti.» Don Celzani stette un po' in silenzio nel buio, poi rispose con voce commossa: «È vero.» «Alla buon'ora», disse l'ingegnere, «e viva la sincerità! Intanto lei ha avuto una delusione, si capisce, ma non si scoraggi, io conosco le donne, conosco il carattere della maestra, è una di quelle mine che hanno la miccia lunga e nascosta, che brucia per un pezzo senza darne segno, ma poi scoppiano, tutto ad un tratto, quando meno se l'aspetta. Abbia una costanza di ferro e una pazienza da santo, e un giorno, perché lei le fa la corte pour le bon motif, non è vero?» «Mi stupisco», rispose Don Celzani, «io ho delle intenzioni oneste.» «Ma è quello che voglio dire», disse l'ingegnere rimesso al faceto da quel malinteso. «Ebbene, senta un consiglio. Le donne come quella non vanno prese d'assalto diretto, bisogna girarvi attorno. Essa ha una passione, la ginnastica. Ebbene, convien pigliarla pel manico di quella passione. Lei deve farsi socio alla palestra, esercitarsi, studiar la materia nei libri, parlargliene, entrarle in grazia in questa maniera. Questo è il primo consiglio che le do. Poi ne verranno degli altri, per ora agli attrezzi e coraggio!» Don Celzani, incerto se quegli parlasse da senno o per burla, non rispose. Intanto erano arrivati all'uscio del commendatore. «Buonanotte», disse l'ingegnere, «sono galantuomo e terrò il segreto.» Il segretario gli rispose una buonanotte fioco e diffidente e rientrò pentitissimo di avere parlato. Gli balenò ancora una speranza quando entrò nella sua camera, nell'atto che accendeva la candela sul comodino. Chissà, forse essa gli aveva scritto quel giorno e la lettera sarebbe arrivata la mattina dopo. Poteva ben presagire che lettera, purtroppo, ma qualunque fosse, gli sarebbe parsa meno dura di quella indifferenza muta che lo schiacciava. Con questo pensiero si svestì tenendo l'orecchio, poiché la sua camera era sotto a quella della Pedani, e non essendoci che un solaio leggero, egli sentiva tutti i più piccoli rumori, ma subito non sentì nulla. Essa doveva essere al tavolino a studiare. Gli venne un sospetto allora e con questo una nuova speranza. Aveva forse fatto male a non esprimere nettamente nella sua dichiarazione il proposito del matrimonio. Quale errore aveva commesso? Eppure la lettera gli pareva così chiara. Dio grande, quant'era bella! Non l'aveva mai vista bene come quella sera, seduta, col busto eretto, come un'imperatrice sul trono, con quell'ampio petto fremente di vita, sul quale egli avrebbe rotolato il capo a costo di bruciarselo, come in un braciere. Thank you. che sentì di sopra, balzò a sedere sul letto e fissò gli occhi infiammati al soffitto, trattenendo il respiro. Mai quei rumori gli avevano agitato il sangue come quella sera. Egli li conosceva tutti e seguitava con essi tutti i movimenti di lei. E non dormì quasi quella notte, e si svegliò prima dell'alba per aspettare il rumore solito che egli soleva ridestare tutta la violenza dei desideri acquietati dalla stanchezza. E infatti, all'ora precisa in cui la Pedani soleva saltar giù, egli sentì il tonfo dei piedi nudi sull'impiantito, che lo scosse tutto, sentì il fruscio usato che la faceva per vestirsi, poi il rumore sordo dei manubri tirati di sotto il letto, poiché ogni giorno, appena levata, faceva un po' d'esercizio, e quell'ultima immagine di quelle braccia gagliarde che scattavano nell'aria sopra il suo capo gli diede finalmente l'impulso a una risoluzione ardita. L'aspettò e per sua fortuna essa scese sola. Egli le andò incontro, la salutò e le domandò con voce tremante: «Non ha nulla da dirmi?» La maestra rispose tranquilla: «Sì, una cosa sola, ho da ringraziarla dei suoi buoni sentimenti», e discese. Allora incominciò per lui una sequela di giorni tristissimi, perché aveva bensì deciso di ritentare la prova con una domanda formale di matrimonio, ma capiva che il farlo subito dopo quello smacco, senza prepararsi il terreno, sarebbe stata una follia, e intanto gli piovvero dispiaceri su dispiaceri. Il primo fu che la maestra Tibelli, di punto in bianco, gli tolse il saluto. Poi trovò strana la condotta del maestro Fassi. Costui, incontrandolo per la scala, gli mostrò le bozze d'un articolo intitolato «Berlino spende 500.000 all'anno per la ginnastica», nel quale faceva un confronto con l'Italia intera, che spendeva la metà. E poi, voltando bruscamente il discorso sulla Pedani, «Gran bel pezzo di donna!» esclamò. «Quella sarebbe degna di sposare il più bell'uomo d'Italia. Scommetto che lei non regge con le braccia tese i due manubri che la tiene con la mano sola. Chi avrà da sposarla farà bene a far prima i suoi conti». Ma che discorsi erano quelli? Egli non si sentiva offeso dal paragone delle forze, il suo solo pensiero era la disparità della bellezza, per il resto aveva la coscienza tranquilla, ma lo inquietava il sospetto che il maestro conoscesse le sue intenzioni. Ci fu di peggio però. Due o tre volte, mentre seguitava la Pedani giù per le scale, egli vide uscire sul pianerottolo lo studente Ginoni, con un viso su cui si leggeva il proposito di un assalto, e ogni volta, al veder lui, quegli fece un atto di stizza e rientrò in casa. Ma il dispiacere più grave, don Celzani, l'ebbe dalla moglie del maestro Fassi. Costei lo cercava da vari giorni, lo incontrò una sera sotto il portone e lo fermò. «Come va il signor Fassi?» domandò lui, con la sua voce piagnucolosa, come uscente da un petto oppresso dal peso delle appendici. Essa rispose glorificando, secondo il solito, le grandi occupazioni di suo marito. «Esso, che lavora, che fa il confronto fra gli stipendi dei maestri di ginnastica della Svezia e quelli dell'Italia, perché è una vergogna che deve finire. Dire che con gli studi che ci vogliono, i maestri di ginnastica sono pagati come impiegatucci e nemmeno il titolo di professori che hanno tutti quei che insegnano a scarabocchiare. Quando ci penso, col suo ingegno e con la sua presenza, che altra carriera avrebbe potuto fare? Perché lei non ha un'idea degli studi di quell'uomo, e ancora che è disturbato in tutte le maniere, da faccende, da visite. C'è quella maestra Pedani che ogni momento è lì a domandargli aiuti e consigli. Mi dica lei, una ragazza giovane con un uomo ancora nel fiore, se è decente quella libertà? E notando che ci sono io, si figuri se non ci fossi, vada a giudicare le ragazze dall'aria che si danno. Quella parebbe la dignità in persona. Già, una signorina che in piena scuola, come fece l'anno passato al corso d'anatomia, col pretesto di non avere inteso, s'alza per domandare al professore: «Signor professore, dov'è il nervo della simpatia?» È giudicata. e visto con un rapido sguardo l'effetto che produceva in Don Celzani, tirò avanti con l'aria di dir delle cose che non lo riguardassero. Del resto ci sarebbe ben altro da dire. Queste maestre giovani che prima di venire a Torino hanno girato per mezza dozzina di comuni. Si sa, le avventure delle maestre nei villaggi. C'è una certa storia di una compagnia di bersaglieri che hanno fatto del chiasso. Quello che mi stupisce è che l'abbiano accettata a Torino. Ma certo è che in città la conoscono e che è iscritta sul libro nero. Basta. Il mio parere è che non andrà molto tempo che ne vedremo o ne sapremo delle belle. Ma intervenne un fatto in quei giorni che Don Celzani spinse a una risoluzione improvvisa. Incontrato una mattina il maestro Fassi, questi gli disse ex abrupto, come continuando un discorso avviato: «Quella Pedani, che spartana! Ho visto dal mio camerino, ci ha una povera diavola che va a imparare i passi ritmici e lei le fa lezione con tanto di finestra spalancata, con questa grazia di temperatura. È una sua idea fissa che bisogna far la ginnastica all'aria viva!» Il segretario fece tra sé un ragionamento rapidissimo. Se dal camerino del maestro si vedeva nella camera della Pedani, tanto meglio vi si doveva vedere dall'abbaino del solpalco, posto sopra la finestra del camerino. Appena fu solo, rientrò in fretta in casa, prese la chiave del soppalco, salì a lunghi passi le scale, aperse l'uscio e s'avanzò curvo sotto alle travi basse del tetto e andò fino all'abbaino, s'arrampicò e si distese quant'era lungo sopra una catasta di fasci notti, sporse il viso nel vuoto e mise un'esclamazione di piacere. La finestra della camera che restava nell'altro muro della casa era spalancata. La Pedani stava col fianco verso la finestra, volta di fronte alla luna che non si vedeva. La sua voce sonora di contralto arrivava distintissima fin sul tetto. «Ma no!» diceva. «In questo modo lei mi fa il mezzo passo semplice saltellando, mi fa un lungo passo saltellato, non ci intendiamo, rifaccia!» Il segretario sentì il passo dell'alunna, invisibile. «No!» ripeté la maestra. «È troppo esagerato!» Oh, la bella voce profonda, calda, vibrante, che avrebbe fatto immaginare un corpo ammirabile anche a chi l'avesse intesa a occhi chiusi. La Pedani parve scontenta anche nella seconda prova, perché scrollò il capo con vigore e, afferrata impazientemente con le due mani la gonnella nera per scoprire il movimento dei piedi, «Stia attenta!» disse ed eseguì. Dio grande! Gemé il segretario. Egli vide balenare sopra i suoi stivaletti una bianchezza che l'abbarbagliò come un raggio di sole gittatogli negli occhi da uno specchio, e il sangue gli diede un giro come se l'avessero capovolto. Fu un momento solo, ma bastò. Egli non sentì più gli altri comandi, saltò giù dai fascinotti, si scosse di dosso con le mani tremanti le foglie secche e i fuscelli, e sempre con quella visione biancheggiante negli occhi riattraversò quasi correndo il soppalco, scese le scale a passi risoluti e, rientrato in casa e sedutosi a tavolino, si prese il capo fra le mani e raccolse i suoi pensieri. Aveva irrevocabilmente deciso di tentare il colpo supremo con un'aperta ed esplicita domanda di matrimonio. Don Celzani aveva un dovere, a cui sentiva di non poter mancare, quello di rivolgersi prima allo zio per chiedere la sua approvazione e i suoi consigli, anche per questa ragione che la domanda fatta col suo consenso e forse da lui stesso in persona avrebbe avuto tutt'altra efficacia. Preparò dunque il suo discorso e quando ne ebbe bene in mente il primo periodo e l'orditura generale in aspetto grave, con una mano nell'altra strette sul petto, si recò nella stanza del commendatore, gli sedette davanti e chiese il permesso di parlare lentamente, con voce tremolante, fissando gli occhi sulle ginocchia di lui, gli spiattellò il suo segreto. Il commendator Celzani era un uomo che non si stupiva di nulla perché dava pochissima importanza alle cose di questo mondo, ma quando sentì di che si trattava, non poté a meno di alzare dalla poltrona la maestosa testa bianca per guardare negli occhi il nipote. Poi si riabbandonò sulla spalliera, rinvoltandosi nella veste da camera, e stette a sentire il resto con lo sguardo errante sulle pitture a fresco della volta. Quando suo nipote ebbe finito, si guardò prima le unghie nitidissime e poi le pantofole ricamate e mormorò qualche parola vaga che non era un consentimento esplicito, ma nemmeno una disapprovazione. Voleva dire soltanto che si doveva procedere con cautela. Senza dubbio la signorina ispirava simpatia e aveva tutto l'aspetto e il contegno di una persona degna di stima, ma prima di fare un passo, egli credeva conveniente di procedere alla ricerca d'altre informazioni. E mentre il nipote lo guardava con aria interrogativa ed inquieta, egli, masticando le parole e guardando per aria, buttò là il consiglio di ricorrere al suo amico Cavalier Pruzzi, direttore generale delle scuole municipali, il quale, certo, doveva essere al caso di dare dei ragguagli minuti e sicuri intorno a qualunque soggetto del personale insegnante. E il consiglio parve eccellente a Don Celzani. Il commendatore contò sulle dita e gli fissò il sabato successivo come il giorno più opportuno. Gli sarebbe bastato per presentarsi un suo biglietto da visita. Leopoldo Mastelloni ha letto Amore e ginnastica di Edmondo De Amicis. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolanti e Anna Martecchi con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.